Storie italiane. La storia del vecchio sultano. C'erano una volta un povero contadino, sua moglie con un figlio. Avevano anche un fedele cane chiamato Sultan, che era diventato vecchio e aveva perso tutti i denti. Così non poteva più mordere, né per mangiare né per difendersi. E domani lascerò il vecchio Sultan nella foresta. Non è più di alcuna utilità. Sua moglie provò pietà per il cane fedele. Ci ha servito così a lungo ed è stato così fedele. Ci ha aiutato per così tanto tempo. Ora dobbiamo aiutarlo nei suoi ultimi giorni. Cosa? Non sei una donna molto intelligente. Non ha un dente in bocca e nessun ladro ha paura di lui. Non ne abbiamo bisogno. Sì, ci ha servito, ma è stato nutrito bene in cambio. Ora non ho soldi e cibo da sprecare per questo inutile cane. Il povero cane, che giaceva disteso sotto il sole lì vicino, aveva sentito tutto ed era triste che il giorno seguente sarebbe stato il suo ultimo giorno. Oh no, il padrone mi trova inutile. Ho bisogno di fare qualcosa, altrimenti domani sarò senza tetto. Devo consultare il mio amico lupo. Così, di sera, andò verso la foresta per incontrare il suo amico lupo e si lamentò del destino che lo aspettava. Oh mio Dio, è davvero una cosa triste. Ma non essere triste. Tutto ciò che devi fare è dimostrare la tua dignità. Ho qualcosa in mente. Oh, cosa? Cosa? Ascoltami bene. Domani mattina presto, il tuo padrone andrà con sua moglie a raccogliere il fieno. Porteranno con loro il piccolo bambino e nessuno rimarrà a casa. Come al solito, durante il lavoro, metteranno il bambino sotto la siepe all'ombra. Tutto quello che devi fare è sdraiarti anche tu lì. E poi? Poi mi farò vedere e lo scoprirai. Il piano che il lupo aveva in mente era intrigante e spaventoso, ma andò avanti, sperando che gli salvasse la vita. Il giorno dopo, tutto andò esattamente secondo i piani. Il contadino e sua moglie lavorarono nei campi e Sultan giaceva accanto al bambino e, come promesso, apparve il lupo. Eccoti, amico mio. Ora cosa dovremmo fare? Abbaia! Il lupo portò via il bambino, scioccando Sultan e i suoi genitori. Sconvolto dalle azioni del suo amico, Sultan iniziò ad abbaiare e seguì il lupo nel bosco. Il contadino e sua moglie lo videro da lontano e corsero dietro di lui. Aspetta, dove vai con il bambino? Il lupo raggiunse il lato oscuro della foresta e si fermò. Anche Sultan arrivò là e lo avvertì. Non puoi far del male al bimbo mentre sono ancora vivo. Non sono qui per ferire il bambino. Avevo solo intenzione di mostrare al tuo padrone che sei un buon cane. Ora riporta il bambino al tuo padrone, il quale penserà che l'hai salvato e te ne sarà così tanto grato da non farti più del male. Anzi, al contrario, sarai così caro ai loro cuori che loro non ti faranno mai più mancare nulla. Il lupo restituì il bambino e augurò buona fortuna a Sultan. Grazie, amico mio. Forse sei riuscito a salvarmi la vita. Il contadino e sua moglie entrarono urlando nella foresta, ma si fermarono quando videro il vecchio Sultan riportare il bambino al sicuro, sano e salvo. Oh, amico Sultan! Bravo, bravo! Hai salvato mio figlio e dimostrato di essere un bravo cane! Il contadino era pieno di gioia e accarezzava il vecchio Sultan con amore. E tu lo volevi abbandonare? Scusa, amico mio, mangerai il mio pane fino a quando sarai in vita. Torna subito a casa, cara, e prepara del pan bagnato al vecchio Sultan che non dovrà masticare. E prendi il mio cuscino dal letto. Lo darò a lui per sdraiarsi. Da quel momento in poi, al vecchio Sultan non mancò più niente. Dopo un po' di tempo, il lupo gli fece visita e fu contento che tutto fosse andato così bene. Ma aveva una richiesta per il vecchio Sultan. Dopo tutto quello che ho fatto per te, merito una ricompensa. Sì, certo, amico mio. Sono pronto a condividere il mio cibo con te tutti i giorni. No, no, no. Penserò io al mio cibo. Tutto ciò che devi fare è chiudere un occhio quando porterò via una delle pecore grasse del tuo padrone. Cosa? Mai! Non posso tradire il mio padrone. Mi dispiace, ma non posso farlo. Il lupo, che pensava che il suo amico non stesse parlando sul serio, tornò di nascosto durante la notte per portare via le pecore. Ma il fedele Sultan sapeva che il pericolo era in agguato e non appena vide il lupo appaiò e il contadino inseguì il lupo con un grosso bastone. Il lupo dovette fare marcia indietro, ma gridò al cane: aspetta, la pagherai per questo! Il mattino seguente, il lupo mandò il cinghiale per sfidare il cane ad andare nella foresta in modo da sistemare la faccenda. Avevi un debito con il lupo e non l'hai saldato. Devi venire nella foresta e scusarti con il lupo per le botte che hai ricevuto dal tuo padrone. Il vecchio Sultan sapeva che non era stato chiamato solo per scusarsi. Il lupo stava progettando un attacco. Il vecchio Sultan non riuscì a trovare nessuno che potesse fargli da spalla, tranne un gatto con tre zampe. E mentre uscirono insieme, il povero gatto zoppicava e allo stesso tempo allungava la coda in aria per il dolore. Prrr, numi, mi fanno male le gambe. Oh, caro gatto, non dimenticherò mai il tuo aiuto. Il lupo e il suo amico erano già sul posto, ma quando videro il loro nemico arrivare, pensarono che stesse portando una sciabola. Scambiarono la coda distesa del gatto per una sciabola. Oh, Numi, dove ha trovato una spada quella vecchia canaglia di Sultan? Sono sicuro che quella è per ferire te, lupo. E c'è anche un gatto. Ma che sta facendo? Quando la povera bestia saltava sulle tre gambe, loro pensavano che stesse raccogliendo una pietra per lanciargliela contro. Oh, non penso che potremmo vincere, lupo. Scappo a nascondermi. Anch'io. Dalla paura il cinghiale si nascose nel sottobosco e il lupo saltò su un albero. Il cane e il gatto, quando arrivarono, si domandarono come mai non ci fosse nessuno. Non riesco a vedere nessuno. Il cinghiale, tuttavia, non era stato in grado di nascondersi del tutto e una delle sue orecchie era ancora visibile. Mentre il gatto stava guardando attentamente, il cinghiale mosse l'orecchio. Ma posso... Un topo? Il gatto, che pensava che fosse un topo a muoversi, saltò su di esso e lo morse forte. Il cinghiale fece un rumore spaventoso e corse via, gridando: oh, lasciami in pace, il colpevole è sull'albero! Sorpresi, il cane e il gatto alzarono lo sguardo e videro il lupo, che si vergognava di essersi dimostrato così poco coraggioso. Che stai facendo lassù, amico mio? Mau! Si nasconde dalla paura, o no? Il lupo scese, vergognandosi di essere stato un cattivo amico e anche di essersi così spaventato e impaurito. Ma il vecchio Sultan lo abbracciò e calmò la sua paura. Non preoccuparti, non farò del male al mio amico adesso. Il lupo imparò la sua lezione e fece pace con il cane.